Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La tua speranza però è che con Casapoggio cambi qualcosa. Non me ne fotte in cazzo, non me ne fotte niente. Oh. Ma ha rotto il naso. Da due ore che sta qua. Oh. E questo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, è l'audio di un'aggressione avvenuta ai danni di una troupe della RAI, della trasmissione Nemo a Ostia, dove si è votato il 5 novembre, dove ci sarà il ballottaggio il prossimo 19 novembre, e i giornalisti di questa trasmissione di Rai 2 sono andati per fare alcune domande, insomma, e un esponente della famiglia Spada lo ha aggredito, uno dei giornalisti, e gli ha rotto il naso, come avete sentito, perché stava facendo delle domande, dice ormai i giornalisti, basta, i giornalisti hanno rotto i coglioni, insomma, ecco. Parleremo della situazione veramente complicata, difficile, che c'è a Ostia da diverso tempo. Ci occuperemo poi anche di un primo arresto che c'è stato dopo le elezioni in Sicilia, è un neo rieletto deputato dell'Assemblea regionale siciliana, Cateno De Luca, per una maxi evasione fiscale. Ci occuperemo di questo, parleremo più in generale della politica italiana e poi anche della politica spagnola. In Catalogna oggi c'è stato sciopero generale, la regione completamente paralizzata, sembra che però Madrid apra degli spiragli, e poi anche fra i vari temi una svolta nella pubblica amministrazione italiana, perché per i nuovi contratti per i dipendenti pubblici ci potrebbe essere l'equiparazione, per ora è una bozza, tra unioni civili e matrimoni per congedi, permessi, eccetera. Insomma, un sacco di argomenti, tantissimi, speriamo di starci in tutti questi 60 minuti fino alle 22. Voi, se volete fare i vostri commenti, lo sapete, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è sempre 349-238-6666, 349-238-6666. Quindi, tutti questi temi a tra poco con i vari ospiti, però prima vi racconto, come sempre in sintesi, la giornata. Elezioni siciliane, Cateno De Luca, neoeletto in Sicilia nelle file dell'UDC, arrestato per evasione fiscale, era stato inserito tra gli impresentabili. Ostia, troupe della trasmissione Nemo, aggredita nella città da un membro della famiglia Spada, il web approva ma Casa Pound condanna l'aggressione. Catalogna, la regione paralizzata dallo sciopero generale per chiedere la liberazione dei detenuti politici, e Madrid valuta l'ipotesi di referendum sull'indipendenza delle regioni. Ennesimo femminicidio nel giorno in cui il ministro Minniti conferma l'aumento in Italia dei reati contro le donne, questa volta è avvenuto in Friuli. I due fidanzati uccisi a Udine, condanna all'ergastolo per Giosuè Ruotolo, per il duplice omicidio di Teresa Costanza e Trifone Ragone, uccisi a colpi di pistola la sera del 17 marzo 2015. Svolta nella pubblica amministrazione, si va verso l'equiparazione delle unioni civili con i matrimoni per congedi e permessi. Spettacolo, approvata la nuova legge, l'art bonus è esteso a tutti i settori. Partiamo quindi dalle notizie che, vi dicevo, arrivano dalla Sicilia, tre giorni dalle elezioni. Dopo le elezioni, la nuova Assemblea regionale siciliana conta già il primo deputato arrestato, e si tratta di Cateno De Luca dell'UDC, che ha postato un video su Facebook dai domiciliari. È finito agli arresti domiciliari ancor prima di insediarsi a Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea regionale siciliana, da deputato regionale. Rieletto all'Assemblea e riarrestato, Cateno De Luca, promotore del Movimento Sicilia Vera, sarebbe stato il promotore di un'associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di un'evasione fiscale da 1.750.000 euro. Sulla base di questa accusa, i militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Messina e i carabinieri hanno seguito un ordine di custodia nei suoi confronti. Agli arresti domiciliari è finito anche Carmelo Satta, presidente a Messina della FENAPI, la Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori, attorno alla quale sarebbe stata imbastita la truffa, mentre altre 8 persone sono indagate a piede libero. Ma lui, De Luca, già nell'elenco degli impresentabili, candidato alle elezioni regionali con l'UDC, eletto con 5.418 voti, non si arrende, anzi rilancia con un video postato sul suo profilo Facebook. Io sono sereno perché già questo personaggio della politica siciliana il lunedì ha telefonato a un nostro amico e gli ha detto che era inutile l'elezione di Cateno perché sarebbe stato arrestato. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Messina. La colpa è degli impresentabili. Le reazioni all'arresto di Cateno De Luca in Sicilia non si fanno attendere a 3 giorni dal voto. Per la presidente della Commissione Antimafia, Rosy Bindi, si tratta di un fatto gravissimo. Per il Movimento 5 Stelle le cause sono chiare. Alfonso Bonafede. È la dimostrazione che la questione degli impresentabili non è una questione formale, ma una questione sostanziale che poi si concretizza davvero dopo le elezioni. E anche Matteo Salvini della Lega se la prende con le liste non pulite. Era uno di quelli che si era proposto, a cui abbiamo detto no grazie. Altra questione è quella del titolo di Libero su Matteo Renzi. Per stenderlo bisognerebbe sparargli. Battuta infelice per il segretario PD, che comunque non si sente minacciato da Vittorio Feltri. Ma dal PD replica così Andrea Martella. Beh, lo definirei un titolo ignobile. Libero non fa altro che alimentare l'aggressione verbale e l'odio. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E adesso appunto parliamo di Ostia. Ieri pomeriggio due inviati di Nemo Nessuno Escluso, la trasmissione di Rai 2, il giornalista Daniele Piervincenzi e il filmmaker Edoardo Anselmi sono stati violentemente aggrediti, come avete sentito all'inizio, a Ostia da Roberto Spada, che è membro della famiglia Spada, nota alle cronache per diverse inchieste giudiziarie, e anche aggrediti da un suo sodale. Lo rende noto la RAI spiegando che la troupe del programma di Rai 2 doveva realizzare un servizio sul voto nel municipio di Ostia. Piervincenzi, come avete sentito, si è rotto il setto nasale, ha una prognosi di 30 giorni. Domani questo video poi si vedrà, domani a Nemo su Rai 2 alle 21:20. E arriva la reazione di Roberto Spada, l'aggressore, che ha scritto un post: negli ultimi 10 giorni sono venuti almeno 30 giornalisti a scoglionare, la pazienza ha un limite. Poi Casa Pound ha condannato, ha detto si tratta di una violenza deprecabile. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha twittato dicendo: violenza clan Spada inaccettabile. Ne torneremo a parlare, come dicevo, tra poco. Torniamo alla cronaca giudiziaria a Napoli, dove è tornato ai domiciliari Alfredo Romeo, al centro della nuova inchiesta il più grande ospedale del sud Italia, il Cardarelli. Appalti truccati, lavori ad esempio attribuiti per Palazzo Capponi a Roma all'imprenditore Romeo, e che avrebbero dovuto essere bloccati dalla sovrintendenza perché avrebbero comportato la distruzione di un reticolato di epoca romana. Invece sono stati autorizzati lavori e consulenze affidate a Napoli dall'attuale direttore generale dell'ospedale Cardarelli, Ciro Verdoliva, e per lo stesso nosocomio. Appalti per il Global Service a Napoli, che sarebbero stati condizionati per diversi anni dall'ex direttore dell'ufficio patrimonio del comune di Napoli, Giovanni Annunziata. 3 filoni di indagine dunque della DDA partenopea, distinti dall'inchiesta Consip passata a Roma, in cui è già implicato l'imprenditore Romeo, e che hanno portato all'esecuzione da parte dei carabinieri di 16 misure cautelari, tra cui 4 agli arresti domiciliari per Ciro Verdoliva, Alfredo Romeo, Giovanni Annunziata ed il collaboratore di Romeo, Ivan Russo. Laura Vigiano, Radio 24, il Sole 24 Ore, Napoli. Ed è il napoletano Caffiero De Rao, 65 anni, attualmente capo della Procura di Reggio Calabria, il nuovo procuratore nazionale antimafia. È stato a lungo PM a Napoli e ha legato il suo nome al processo Spartacus, che portò all'azzeramento delle cupole del clan dei Casalesi. E ora invece all'estero, con la Catalogna, che oggi è rimasta paralizzata dallo sciopero generale che era stato indetto per chiedere la liberazione dei detenuti politici. In serata ancora migliaia in piazza dopo che l'Audienza Nazionale di Madrid, la Corte Suprema, ha confermato il carcere preventivo per i leader indipendentisti catalani, che sono Jordi Sanchez e Jordi Cuixart, e Madrid intanto però valuta l'ipotesi di referendum sull'indipendenza delle regioni. Poi ci collegheremo nel corso dell'effetto notte con Barcellona. Torniamo in Italia per parlare dell'ennesimo femminicidio, questa volta a Gradisca di Sonso, in Friuli, dove un uomo ha ucciso a coltellate la moglie, tra l'altro davanti al figlioletto di 8 anni, storia di ordinaria amministrazione ormai. Nel giorno questo in cui il ministro dell'Interno, Minniti, oggi ha parlato in audizione alla commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, fornendo i dati. E ha detto: abbiamo di fronte un dato che continua a costituire un elemento di particolare preoccupazione e inaccettabilità sulle violenze di genere, sul superamento di queste forme di violenza si gioca, dice, la civiltà di un paese, non bisogna mai cessare di tenere molto alta l'attenzione e ad agire, e ha confermato che i reati contro le donne sono in aumento. Sentiamolo. Il dato è questo ed è un dato che mi lascia particolarmente preoccupato. E cioè, noi abbiamo, in tutti i dati di cui adesso riferirò, abbiamo un dato di diminuzione dei reati, grosso modo è questo il dato. e tuttavia nella diminuzione dei rimanenti rimane inalterato, o addirittura in alcuni casi aumenta, il fatto che questi reati vengano perpetrati contro le donne. Questo appare così come una costante, ed è una costante a mio avviso inaccettabile. Poi il fatto di cronaca, i due fidanzati uccisi a Udine, a Pordenone, c'è una prima sentenza per Giosuè Ruotolo ed è carcere a vita. Ergastolo e isolamento diurno per 2 anni. Questa è la condanna in primo grado, arrivata dopo oltre 2 giorni di camera di consiglio, per Giosuè Ruotolo. La corte d'assise di Udine ha giudicato il 28enne di Somma Vesuviana colpevole dell'omicidio della coppia di fidanzati Teresa Costanza e Trifone Ragone, uccisi a colpi di pistola la sera del 17 marzo 2015 nel parcheggio del Palazzetto dello Sport di Pordenone. Il militare campano era unico imputato nel processo per il duplice omicidio dell'assicuratrice siciliana e del caporal maggiore pugliese. Ruotolo, che si è sempre dichiarato innocente, si trova nel carcere di Belluno dal 7 marzo 2016. Per la procura di Pordenone, il movente del duplice omicidio sarebbe legato al forte odio verso l'ex amico e coinquilino Trifone e la gelosia verso Teresa. Togliendoli di mezzo, continua la procura, sparivano 2 persone verso cui covava odio già da tempo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E la notizia che arriva dalla pubblica amministrazione: si va verso l'equiparazione delle unioni civili con i matrimoni per quanto concerne anche congedi e permessi, poi ne parleremo in questa puntata di Effetto Notte. Una notizia di scienza e di salute, si parla dello zampino dell'orologio biologico nella guarigione delle ferite, perché durante il giorno le ferite si rimarginano 2 volte più velocemente, magari fateci caso, rispetto alla notte, e questo accade perché a scandire i ritmi della rigenerazione delle cellule è l'orologio biologico. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Science Translational Medicine del gruppo coordinato da Ned Hoyle del Consiglio per la Ricerca Medica della Gran Bretagna. È la prima volta che si mostra il ruolo dell'orologio biologico, che regola il sonno, la fame, il rilascio degli ormoni in base a cicli di 24 ore, anche nella guarigione delle ferite, e la scoperta potrebbe aiutare quindi a sviluppare farmaci che ne migliorino la cicatrizzazione. Mentre adesso il nostro Dario Ricci ci parla dell'ennesimo successo di Bebevio, vero Dario? Sì, anche questo è un fenomeno tutto da studiare, la fantastica grinta di Bebevio dopo 2 anni si conferma campionessa mondiale nel fioretto. In mezzo c'è stato un oro olimpico, il viaggio alla Casa Bianca che ricorderai Roberta, un clamoroso debutto anche da conduttrice TV, e adesso quest'altro oro ai mondiali paralimpici di scherma che si stanno svolgendo a Roma, cavalcata trionfale per Bebe, che ha sconfitto con un nettissimo 15-3 la russa Boikova in finale, conquistando così l'oro nella giornata in cui è arrivato anche dai nostri schermitori paralimpici l'argento nella spada di Alessio Sarri. Grazie Dario Ricci, doveroso appunto ricordare questo citare questo ennesimo trionfo di Bebevio. Adesso invece ci prendiamo una piccola pausa per aggiornare chi si muove per strade e autostrade. Dice questo ascoltatore Roberto da Roma, vi ricordo per i vostri commenti pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure numero per messaggio e WhatsApp. Dice: beh Roberta, dovrebbe andare da sé che la legge sulle unioni civili presenti dei diritti come quello appunto della pubblica amministrazione, se no cosa serve se ti unisci con la persona amata senza alcun privilegio di legge, quindi una lacuna di una legge ben imperfetta. Roberto, poi ne parleremo e cominceremo con gli approfondimenti tra pochissimo. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci subito insieme, Roberta Giordano con voi, quindi cominciamo ad approfondire alcuni temi che vi annunciavo nella prima parte. Dopo il riassunto della giornata, cominciamo con quello che è successo sia a Ostia che in Sicilia, una giornata particolarmente intensa questa. Fra i vostri messaggi leggo per esempio questo di questo ascoltatore che dice: indegna violenza nei confronti di un giornalista che tocca la libera informazione, sottolinea l'atteggiamento tipicamente fascista ed è grave questo, che questo soggetto non sia indagato. In realtà penso che qualcosa succederà, questo lo scrive Tonino da Civitavecchia. Nelle notizie principali, che vi ricordo, se non avete acceso puntualmente alle 21, ricordatevi per i vostri commenti pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349 238 6666. Elezioni siciliane, Cateno De Luca, neoeletto in Sicilia nelle file dell'UDC, arrestato per evasione fiscale, era stato inserito tra gli impresentabili. Poi a Ostia, una truppa della trasmissione Nemo di Rai 2 aggredita da un membro della famiglia Spada. Catalogna, la regione paralizzata dallo sciopero generale per chiedere la liberazione dei detenuti politici. Ennesimo femminicidio oggi in Friuli, nel giorno in cui il ministro Minniti conferma l'aumento in Italia dei reati contro le donne. E poi due fidanzati uccisi a Pordenone, condanna all'ergastolo per Giosuè Ruotolo per il duplice omicidio di Teresa Costanza e Trifone Aragone avvenuto nel 2015. Svolta nella pubblica amministrazione, si va verso l'equiparazione delle unioni civili con i matrimoni per congedi e permessi. E poi per lo spettacolo è stata approvata la nuova legge che prevede fra l'altro l'art bonus esteso a tutti i settori. Quindi dicevamo, parliamo di Ostia e di Sicilia, in tutte e due le realtà si è votato in questi giorni, domenica scorsa, il 5 novembre, e avete sentito all'inizio, ho fatto sentire quell'audio veramente inquietante dell'aggressione che ha subito questa troupe della RAI che era andata ad Ostia, municipio di Roma, dove si rivoterà per il ballottaggio il 19 novembre per fare delle domande, insomma. E Daniele Piervincenzi e il filmmaker Edoardo Anselmi sono stati violentemente aggrediti da Roberto Spada, membro della famiglia Spada, che è noto alle cronache per diverse inchieste giudiziarie, che con una testata gli ha praticamente rotto il setto nasale. Diciamo che Ostia da diverso tempo è alla ribalta delle cronache, certamente non per notizie positive, come ci confermerà Simone Canettieri, giornalista del Messaggero. Buonasera Simone. Sì, buonasera a voi e a tutti i radiospettatori. Se tu dovessi scattare una fotografia di Ostia per spiegarla a chi non conosce la situazione di questo decimo municipio di Roma. Sì, allora, innanzitutto partirei dai numeri, perché Ostia, che è classificata come un decimo municipio, si tratta comunque di un territorio che è esteso come il comune di Milano e che ha gli stessi abitanti su per giù di Venezia. Quindi è praticamente quasi una città che non un municipio. Come possiamo spiegarla agli ascoltatori che non conoscono? Di fatto è una città di 250.000 abitanti, quindi insomma è una città medio e grande d'Italia, solo che per la questione del decentramento è stata, diciamo, suddivisa. Roma è suddivisa in 15 municipi e il decimo municipio, quello più periferico, è quello di Ostia. Quindi parliamo di un territorio vastissimo che ha subito sicuramente più di tutti anche la crisi economica, e insieme alla crisi economica anche l'avanzata dei clan e della malavita. Un territorio e quindi un municipio che nel 2015 è stato sciolto per mafia, per infiltrazioni mafiose, a seguito della famosa inchiesta Mafia Capitale. Quindi bisogna partire da qua. Ci sono stati circa quasi due anni di commissariamento, c'è stato un prefetto, Domenico Volpiani, che si è insediato al posto della giunta, che nel frattempo era stata anche arrestata, sempre nell'inchiesta del Mondo di Mezzo. Domenica si è tornato al voto e il primo risultato delle urne è stato abbastanza inquietante, perché uno su tre ha votato. Quindi un'affluenza bassissima. A fronte di questo, ovviamente, sono iniziate una serie di dati, di speculazioni anche politiche, perché la grande sorpresa è stata l'ascesa al 9% di Casa Pound. Che ha preso il 9% circa, no, Simone? Certo, ricordiamo, sì, è una formazione neofascista, si può dire. Sì, loro, no, si può dire, lo dicono anche loro stessi, quindi insomma stiamo facendo dell'azione. Loro si definiscono i fascisti del terzo millennio e quindi ovviamente fanno premio proprio su questo, cioè loro si promettono di attivare tutta una serie di politiche sociali, quindi danno pacchi di pasta alle famiglie bisognose, si trovano, diciamo, a volte a dare le case popolari loro agli italiani e a sgomberare invece gli immigrati, quindi fanno, diciamo, una sorta di sindacato nero all'interno di questo territorio, perché le istituzioni evidentemente latitano, latitavano, no? E latitano. Poi c'è il capitolo Spada, Roberto Spada, che è fratello di un boss condannato per 10 anni dell'omonima famiglia malavitosa, ha detto nei giorni scorsi, ha fatto questo endorsement per il candidato di Casa Pound, Luca Marcella, che ha ottenuto questo voto. Allo stesso tempo Marcella ovviamente ha preso un minimo di distanze, perché non ci stava a farsi comunque accomunare o a farsi accattire su questo Spada. Simone, ma se si parla di clan, scusa, lì a Ostia, e non so, non c'è un intervento delle forze dell'ordine, qualche inchiesta? Sì, certo. No? Sembra che si parli così. Ci sono state sentenze, arresti che riguardano il clan Spada, Fasciani, Triassi, che sono comunque, diciamo, le organizzazioni che gestiscono il malaffare, quindi dalla droga all'estorsione, tutto, insomma, noi come giornalisti del Messaggero, ma anche tutti, insomma, gli altri giornali che fanno cronaca di Roma, si occupano periodicamente di queste famiglie, che sono tante, sono comunque composte da tante persone, e che nel frattempo si sono autoghettizzate andando a vivere in alcune zone precise di Ostia, della periferia di Ostia, dove anche a volte l'intervento della forza pubblica è complicato, e quindi si sentono loro i veri padroni. Questo è grave, grave che avvenga in Italia, che avvenga in quella zona, già insomma, diciamo, per quanto riguarda la criminalità organizzata, no, sappiamo comunque la battaglia continua, però... Sicuramente, diciamo, è quello che colpisce, diciamo, è il tempismo, perché l'aggressione arriva quando ormai il commissariamento voluto dal governo, che aveva mandato un prefetto, sta per terminare, e quindi questa aggressione in un certo senso rimarca il territorio, come per dire stiamo ritornando, si potrebbe leggere anche così. Questa aggressione dal punto di vista dei clan si può dire: eccoci, adesso eravamo rimasti un po' in sordina, adesso stiamo ritornando, anche perché a fronte di una politica che, al di là di chi dovrà di chi vincerà tra due domeniche, tra Movimento 5 Stelle, c'è il ballottaggio tra Movimento 5 Stelle e la destra, sì. Vediamo, certo, se alla non fine è una politica debole, però che non rimanga una zona franca, che non continui a rimanere solo una zona sicuro franca. Sicuro c'è una grandissima disaffezione alla politica, e questo non è un bel segnale, certo. Significa che i cittadini non credono poi nella forza possibilità di cambiamenti e nel cambiamento di soluzioni della politica. Grazie Simone Canettieri del Grazie Messaggero, buon lavoro. Ciao Simone. Grazie. Ciao. E da Ostia alla Sicilia, anche lì abbiamo detto si è votato, vincitore il candidato del centrodestra Musumeci, però c'è già il primo arresto, Raffaella Calandra, di un neodeputato all'Assemblea regionale, perché gli assessori si chiamano in realtà deputati, no? L'Assemblea regionale siciliana, che è stato rieletto in realtà ed era a sostegno della candidatura di Musumeci, no? Sì, centrodestra. In realtà era un nome, un candidato che è sempre vissuto un po' la sua vicenda appunto pubblica tra la politica e le vicende giudiziarie. Cateno De Luca. Esatto, Cateno De Luca, UDC, e già in passato era stato anche arrestato per una inchiesta su un presunto sacco edilizio di questo comune del Messinese, Fiume di Nisi, di cui era stato sindaco, e proprio per via di questa inchiesta nel 2011 non era riuscito a farsi eleggere appunto all'assemblea regionale, cosa che invece gli sembrava riuscita, gli era riuscita, diciamo, in questa tornata, ma non aveva messo in conto questo nuovo arresto, anche se poi in realtà invece poi nel suo commento a questa vicenda, con un post su Facebook dagli arresti domiciliari, dice che già sapeva che lo avrebbero arrestato e che lui si è scontrato contro i poteri forti di Messina. Sentire giusto un passaggio, ha fatto questo video su Facebook degli arresti domiciliari. La vicenda che riguarda questo arresto fa ridere, perché è una vicenda molto semplice. Io vengo accusato di essere stato il regista di un'evasione fiscale di un ente collettivo, il CAF Fenavi, cioè di un ente che non è mio. E originariamente questo era uno dei 15 procedimenti penali che sono stati aperti a mio carico, e che poi di questi 14 sono stati chiusi con sentenze di assoluzione piena o con archiviazione perché il fatto non sussiste. Un'evasione da 1.750.000 euro, non pochi non pochi soldi. E a proposito delle vicende giudiziarie, appunto, che aveva avuto a suo carico, la procura ha chiesto una condanna a 5 anni e a 4 anni invece anche per suo fratello, per appunto la vicenda di sempre di questo altro comune del Messinese di cui era sindaco, dove le sue aziende si sarebbero aggiudicati lavori edilizi nel suo stesso comune. Poi era stato anche primo cittadino di un altro comune sempre del Messinese ed era pronto a correre per la guida del la città di Messina, appunto, di Messina. Però, stessa per il momento, insomma, i arresti domiciliari per questa evasione, come dicevi, di 1.750.000. Però c'è un dato che è interessante, collegandosi anche a quanto si era stato detto prima a proposito di Ostia, che il termine, l'estensione, è un dato significativo anche soprattutto dei comuni, in particolar modo del sud, dove c'è un controllo anche malavitoso abbastanza forte, e quindi per paura e disaffezione non si va a votare. Questo è un elemento che in questo caso tutto su Ostia clamoroso, ma che ma è che una spia che anche può la essere Sicilia, che cioè, può essere significativo modo, un po' anche per dici. Tutto il centro-sud. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Roberta. Ciao Raffaella. Ciao. E adesso continuiamo a parlare di politica, ma diciamo di politica dal punto di vista partitico, di coalizione, di strategie, di mal di pancia, con la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Cara Barbara. Buonasera. Ciao Barbara, allora abbiamo parlato dell'arresto di De Luca, di quello che è avvenuto ad Ostia. Per quanto riguarda De Luca, Grillo dice su Facebook: non sono passate manco 48 ore, tac, primo arrestato negli eletti di Musumeci. Di Maio ha detto: ecco il primo degli impresentabili. Ne abbiamo parlato, insomma, nei giorni scorsi. Senti, c'è un sondaggio Demopolis che dice che l'astensione è il dato più caratterizzante del voto, come dicevamo prima con Raffaella Calandra, no? Per le regionali in Sicilia. Domenica scorsa ha votato meno del 47% dei siciliani, quindi si capisce anche lì questa disaffezione e forse anche, diceva, questa lettura in senso di controllo del voto. Poi invece un altro sondaggio più sereno, diciamo, che è stato anche citato oggi dal PD e da Renzi, eseguito tra il 6 e l'8 novembre, parla invece a livello nazionale del PD al 26,3%, Movimento 5 Stelle il 25,4%, Lega 14,5%, Forza Italia 14,3%. Queste le intenzioni di voto per le elezioni politiche. Barbara, sì. Renzi oggi ha rivendicato questa cosa, no? Ieri l'intervista con Floris, dove è mancato Di Maio che si è sottratto all'ultimo, e lui oggi ribadisce, dice: il PD viene dato più o meno intorno al 26,5%, che è il doppio di Forza Italia e della Lega. È chiaro che si pone il tema della coalizione, quindi lui, insomma, si mostra sempre sicuro di sé, rilancia anzi sui vitalizi come tema, cavallo di battaglia da sottrarre anche al Movimento 5 Stelle. Sì, diciamo che il problema che ha Renzi è che c'è una legge elettorale che incentiva le coalizioni, come abbiamo sempre detto, e lui non ha nessuno con cui coalizzarsi, e quindi nei collegi uninominali maggioritari il rischio per il Partito Democratico è quello un po' di quello che è accaduto in Sicilia, cioè di vedere che presentandosi divisi al collegio uninominale la sinistra, cioè MDP da una parte e PD dall'altra, ad aggiudicarsi quei seggi siano o il centrodestra o il Movimento 5 Stelle. Barbara, tra l'altro, parlando proprio appunto del Movimento 5 Stelle che citavi, allora Salvini è tornato a dire che è pronto per un confronto con Di Maio e dice ha fatto male a scappare, è stato pauroso, ha avuto paura di Renzi perché Renzi in TV è convincente, poi dice però se si guardano gli ultimi 4 anni di governo allora si cambia idea. Però lui mantiene questa apertura nei confronti del Movimento 5 Stelle e il senatore del PD Andrea Marcucci ci ha detto: il PD non mette veti sulla coalizione di centrosinistra, ma vedo che MDP, cioè i fuoriusciti dal Partito Democratico, preferisce avviare un dialogo con i 5 Stelle. Pare che si sarebbero incontrati con i 5 Stelle. Però poi Di Maio su Facebook ha scritto: qui, dopo il nostro successo nelle regionali siciliane, i partiti hanno iniziato a tirarci la giacchetta, ma noi non ci coalizziamo con nessuno, non facciamo alleanze, noi non siamo né di destra né di sinistra, non ci coalizziamo con i partiti che hanno distrutto l'Italia negli ultimi 20 anni. C'è forse questo tentativo effettivamente di tirare la giacchetta al Movimento 5 Stelle, secondo te, Barbara? Ma secondo me c'è il tentativo di accreditarsi presso l'elettorato, questo lo vedo un po' non solo da parte di MDP ma anche della Lega di Salvini, no? Abbiamo visto che Salvini è un po' che ammicca No, non solo, ma subito dopo il voto siciliano, alle critiche forti di Berlusconi, lui ha replicato dicendo che non si può criticare, insomma non si può usare toni così duri nei confronti di un partito che ha tanti elettori sotto, e quindi ammicca anche lui all'elettorato 5 Stelle, così come i 5 Stelle dicono esplicitamente di voler togliere i giovani del PD, no? Gli elettori giovani del PD al PD. E quindi si propongono come alternativa al Partito Democratico, quindi è un po' un appunto, ripeto, siamo già in campagna elettorale, ognuno fa la sua parte, ricordo sempre ai nostri ascoltatori che bisogna sempre guardare dritti rispetto a quelle che possono essere le situazioni che si verificheranno dopo il voto. Abbiamo una legge che non è maggioritaria, cioè non è come per il governatore, chi prende un voto in più governa, diventa governatore, no, noi avremo una legge dove, se questi sono i risultati, questi dei sondaggi, poco più o poco meno, chiunque arriverà al primo posto avrà bisogno di allargare la propria maggioranza, cioè di coalizzarsi con qualcuno, magari con quel qualcuno che dicono oggi di non volere assolutamente come alleato. Mm. Barbara, per chiudere, tu hai sentito per caso parlare di una quarta gamba del centrodestra? Qui si moltiplicano le gambe. Ma è una cosa di cui si parla da tempo, nel senso che noi abbiamo tutta una serie di partitini di centrodestra. Quindi i maggiori, ricordiamo, solo Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, quelli che hanno sostenuto la coalizione. Ma poi ci sono tutte le ex anime del PDL e di Forza Italia in particolare. Quindi Alfano anche. Sì, una parte degli alfaniani sicuramente, ma pensiamo soltanto ad esempio ai Fittiani, alle varie scissioni che ci sono state anche successivamente, cioè ci sono tutta una serie di gruppi che su alcuni territori sono particolarmente forti, ad esempio Fitto in Puglia sicuramente è forte, e quindi che possono in un'alleanza con Forza Italia o come quarta gamba o in un modo più organico con Forza Italia possono rappresentare un elemento per arrivare appunto a conquistare il più possibile di maggioritari, perché il problema per i partiti in questo momento è quello di conquistare i seggi maggioritari, perché visto che al proporzionale ognuno si porta la sua percentuale purché superi lo sbarramento del 3%, chi conquista i seggi maggioritari ha quel quid in più che gli consentirebbe di fare la voce grossa poi al momento quando si aprirà il tavolo per il governo. Chiaro. Barbara Fiammeri, ti saluto leggendo questo messaggio di questo ascoltatore che dice: nel decimo municipio di Roma, cioè Ostia, ci sono anche quartieri bellissimi e signorili come Casal Palocco, evitiamo di fare tutta l'erba un fascio. È peccato però appunto che poi ci siano situazioni, diciamo così, così controverse, così oscure. Grazie Barbara Fiammeri. Ciao cara Barbara. Grazie a voi, grazie a voi. Ciao, buona serata. Ci prendiamo questa pausa, ma è proprio per pochi momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete senz'altro al posto giusto nel momento giusto. Con voi Roberta Giordano, abbiamo già parlato di tante cose, adesso proseguiamo con i temi approfondendo alcune notizie di oggi tra le più importanti. Abbiamo parlato finora della situazione a Ostia dopo che è stata aggredita una troupe della RAI violentemente da un esponente del clan Spada, e poi del primo arresto che c'è stato nelle post elezioni siciliane di questo rieletto deputato all'Assemblea regionale della Sicilia Cateno De Luca per una maxi evasione fiscale, e poi della politica italiana, degli strascichi di ciò che sta succedendo, insomma, dopo queste elezioni, con la sconfitta del PD, il Movimento 5 Stelle che si sente tirato un po' per la giacchetta, ma in realtà pare che le varie forze politiche ammicchino più ai loro elettori che non al movimento stesso, e poi anche, diciamo, delle strategie all'interno del centrodestra. Ora ci occuperemo di tutt'altro tema, di una svolta nella pubblica amministrazione. Però prima, se non avete acceso puntualmente alle 21, io ogni tanto i temi principali ve li ricordo comunque. Abbiamo parlato delle elezioni siciliane, appunto dell'arresto di Cateno De Luca, nelle file dell'UDC, arrestato per evasione fiscale, era stato inserito tra gli impresentabili. Ad Ostia, questa truppa della trasmissione Nemo, aggredita da un membro della famiglia Spada con il web, che approva molti messaggi solidali a Spada, ma Casa Pound condanna l'aggressione. Catalogna, la regione paralizzata dallo sciopero generale, ne parleremo tra poco. E poi l'ennesimo femminicidio, questa volta a Gradisca di Sonzo, in Friuli, un uomo che ha ucciso a coltellate la moglie davanti al bambino di 8 anni, nel giorno in cui il ministro Minniti conferma l'aumento in Italia dei reati contro le donne. Poi due fidanzati uccisi a Pordenone, condanna all'ergastolo per Giosuè Ruotolo. E poi per lo spettacolo è stata approvata la nuova legge con l'art bonus, che viene esteso a tutti i settori. Diciamo, questa svolta nella pubblica amministrazione che vuole equiparare le unioni civili ai matrimoni, su permessi, congedi e non solo. In realtà adesso è una prima bozza del nuovo contratto per gli statali, ma insomma la direzione dovrebbe essere quella. Chiedo a Gian Ettore Gassani, che è presidente dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, e ultimo libro di quelli che ha scritto, l'ultimo è C'eravamo tanto armati, sono storie di amori violenti, di figli manipolati attraverso battaglie legali, di disabilità dimenticate, di sottrazione di minori, insomma tante tante storie che sono nella quotidianità, purtroppo. Gian Ettore Gassani, buonasera. Buonasera a voi. Quindi questa svolta, insomma, il corso l'ha preso, andrà a buon fine? Beh, penso proprio di sì. Del resto la Corte Costituzionale già nel luglio 2016 si era pronunciata ritenendo incostituzionale l'articolo 33 della legge 104, la famosa legge 104, e quindi creando finalmente un varco per equiparare definitivamente le unioni civili ai matrimoni, ma anche le stesse convivenze. Cioè, ormai nel nostro paese non si possono fare più discriminazioni, lo dice la Corte Costituzionale. Quindi è giusto riconoscere soprattutto alle unioni civili la loro struttura familiare, e quindi gli stessi diritti e gli stessi doveri, anche in ordine ai congedi parentali, quando ci sono tutti i presupposti di legge, per esempio handicap, figli, perché ci possono essere anche figli nelle unioni civili se ci sono le adozioni, la stepchild adoption, e tutto quello che riguarda appunto i diritti dei lavoratori. Credo che sia un grosso passo avanti nel nostro paese, perché chiaramente finisce l'epoca in cui soltanto il matrimonio poteva in qualche modo garantire i diritti agli stessi lavoratori. Anche perché, avvocato Gassani, come ricordava Roberto da Roma, va da sé che la legge sulle unioni civili presenti dei diritti come il matrimonio, se no cosa serve, dice, unirti e noi ratificare questa unione insieme a un'altra persona? Se sì, poi... io ho scritto un testo anche sulle unioni civili con la Giuffre, e ho spiegato praticamente che le unioni civili e il matrimonio sono fondamentalmente la stessa cosa. Hanno la stessa struttura. Abbiamo giocato sul nome. Abbiamo fatto in modo che si chiamasse unioni civili, perché pareva brutto che chiamare matrimonio persone dello stesso sesso, ma fondamentalmente la legge 76 di Monica Cirinnà introduce un vero e proprio matrimonio tra le persone dello stesso sesso, per cui non c'è alcun motivo per discriminare le unioni civili e le stesse convivenze di fatto in ordine ai congedi per motivi di salute, nascita di figli, malattie e quant'altro. Ma questo per quanto riguarda la pubblica amministrazione, no? Questa novità che sta arrivando, ma invece per gli altri settori? Per quanto riguarda gli altri settori non ci sono differenze, perché in effetti per quanto riguarda il diritto civile... Dei dipendenti privati, no? Mi si parla. Anche per quanto riguarda i dipendenti privati non ci dovranno essere più differenze. Cioè, la legge e la Corte Costituzionale tende a spazzare via qualsiasi discriminazione, sia nell'impiego privato che nell'impiego pubblico. Per cui è chiaro che poi il giudice del lavoro sarà molto attento per verificare se ci saranno degli abusi nei confronti di unioni civili o di convivenze. Per cui credo che fondamentalmente non ci saranno più discriminazioni, differenze, per cui il contratto di lavoro collettivo e comunque i contratti anche di lavoro privati saranno rispettati e quindi equiparati a quelli delle persone legate al matrimonio. Grazie Gian Ettore Gassani, ricordo l'ultimo libro C'eravamo tanto armati, visto che anche i divorzi sono in aumento da tanto tempo, no? Sarebbe sempre auspicabile lasciarsi così, diciamo, consensualmente, no? Invece a quanto pare nelle relazioni umane assistiamo tutti parlo i giorni. Parlo anche di unioni civili, parlo di portatori di, parlo anche di eutanasia, parlo di tanti diritti negati nel nostro paese. Io credo che l'Italia debba fare un passo in avanti, perché siamo sempre gli ultimi a riconoscere i diritti civili delle persone. Vero, grazie avvocato Gassani. Grazie a voi. Grazie, buona serata. C'è la viabilità e ci ritroviamo tra pochissimo. Tra l'altro Franco chiede, ma uno che si trova agli arresti domiciliari, a proposito appunto del deputato siciliano arrestato, può postare video su Facebook? Non credo, però in questo momento non so dare una risposta, diciamo così, proprio sull'unghia giurisprudenziale. Tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E continuiamo quindi con le notizie, ve l'ho ricordate più volte, d'altronde sono 60 minuti ricchissimi di fatti dall'Italia e dall'estero, qualcuno magari non riesce a seguire tutto, ricordatevi però sempre di accendere puntualmente alle 21, tutte le sere dalle 21 alle 22 se volete rimanere costantemente aggiornati su quello che succede un giorno, così non dovrete dire io questa non la sapevo. Abbiamo parlato di elezioni siciliane, abbiamo parlato della situazione a Ostia con questa troupe della RAI aggredita, e poi Catalogna, ne parleremo tra pochissimo, una regione, questa regione della Spagna così travagliata, oggi paralizzata da uno sciopero generale. Per quanto riguarda l'Italia, oggi il ministro Minniti ha presentato i dati sul femminicidio durante l'audizione alla commissione d'inchiesta appunto parlamentare sul femminicidio, dicendo che i reati aumentano contro le donne, e proprio oggi c'è stato questo ennesimo femminicidio in Friuli. E poi per quanto riguarda i due fidanzati uccisi a Pordenone nel 2015, condanna all'ergastolo per Giosuè Ruotolo, svolta nella pubblica amministrazione, ne abbiamo appena parlato, si va verso l'equiparazione delle unioni civili con i matrimoni per congedi e permessi. Ringrazio Clotilde, ringrazio anche questo ascoltatore, queste ascoltatrici che vogliono essere citate, che ascoltano assiduamente Effetto Notte, quindi come non citare le ragazze del Bar Tabacchi di Caserta. Però adesso invece ci trasferiamo in Spagna, appunto, Catalogna, dove c'è il nostro Mario Magarò. Ciao Mario. Ciao Roberta e buonasera agli ascoltatori. Sarei stato blindato in casa oggi, sei riuscito a camminare per le strade, traffico in tilt, anche il traffico ferroviario no, bloccato per questo sciopero generale che è per la liberazione dei detenuti politici, coloro che sono stati incarcerati da Madrid per il referendum dell'indipendenza dello scorso 1 ottobre, ma anche mi pare per la precarietà del lavoro. Paradossale questo, perché non dovrebbe essere la Catalogna e Barcellona in particolare, diciamo, una delle regioni più ricche, più floride della Spagna? Sì, ma iniziamo col dire che qui a Barcellona, nel capoluogo, la circolazione è stata abbastanza normale, anche il metro, il servizio degli autobus non ha risentito tantissimo, a differenza invece di quanto accaduto sulla rete ferroviaria e sulla rete stradale della Catalogna. Sono stati da poco liberati ad esempio i binari della stazione di Sants, la principale stazione di Barcellona, occupati a lungo dai manifestanti che avevano bloccato la linea Barcellona-Girona dell'alta velocità. E ripeto, cioè, vari blocchi stradali si sono susseguiti durante tutta la giornata, bloccando varie strade e superstrade e autostrade anche della Catalogna. Qui invece in città i servizi pubblici hanno lavorato, insomma, quantomeno al 50%, mentre il traffico aereo nell'aeroporto del Prat è stato assolutamente normale. Come dicevi tu, sì, la manifestazione era stata convocata da un sindacato abbastanza minoritario per parlare, per protestare contro la precarietà lavorativa. Ha poi cambiato in sostanza faccia, perché si sono sommate le due principali associazioni indipendentiste, ovvero l'Assemblea Nazionale Catalana ed Òmnium Cultural, ormai da mesi e mesi assurte agli onori delle cronache, rivendicando appunto la libertà di quelli che vengono definiti da loro prigionieri politici. Quindi i due presidenti delle associazioni indipendentiste, Jordi Cuixart e Jordi Sánchez, e i consiglieri, gli ex consiglieri del governo catalano in carcere. E oggi pomeriggio alle 18 25.000 persone si sono riunite, si sono date appuntamento davanti alla cattedrale di Barcellona per protestare contro la detenzione appunto degli ex consiglieri. 8.000 stamattina si erano riunite davanti al palazzo del governo catalano. Quella di oggi è stata anche un anticipo di quello che sarà la giornata dell'11 novembre, sabato, dove è stata convocata un'altra manifestazione che si preannuncia molto, molto numerosa. Le associazioni indipendentiste vogliono strutturare una sorta di riedizione della Diada. La Diada, che è la festa nazionale della Catalogna, che si celebra, si festeggia ogni 11 settembre, e da anni ormai, negli ultimi 7 anni, si è tramutata in manifesto dell'indipendentismo, con migliaia e migliaia di persone per le strade. 2 mesi fa ce n'erano più di 1 milione, per la verità, a favore, che sostenevano l'indipendenza della Catalogna. Quindi le associazioni indipendentiste hanno convocato una sorta di diada da celebrarsi però l'11 novembre, e si preannuncia estremamente, estremamente numerosa. Mario, però pare, leggevo, che Madrid stia valutando la possibilità, quindi tutto questo qualcosa forse ha smosso, stia valutando la possibilità di fare delle modifiche alla Costituzione in modo da rendere possibili questi referendum per le diverse regioni per l'indipendenza, è vero? Ma questo è un discorso molto, molto in divenire, è tutto da valutare. Io credo sinceramente l'appuntamento decisivo sia quello del 21 dicembre, ovvero delle elezioni regionali fissate dal governo centrale, perché bisognerà innanzitutto, Roberta, vedere se vinceranno di nuovo i partiti indipendentisti, che hanno già vinto e trionfato nel settembre 2015, perché ovviamente una nuova vittoria del blocco indipendentista creerebbe sicuramente esattamente. Quindi dopo si potranno fare tutti i discorsi del caso, ma adesso l'appuntamento alla deadline è il risultato elettorale del 21 dicembre. Sì, e a questo punto bisogna dire che la proposta fatta da Carles Puigdemont dal Belgio, ovvero di far convogliare tutti i partiti indipendentisti in un unico listone elettorale, è tramontata, perché ieri a mezzanotte scadeva il termine per presentare le coalizioni elettorali, appunto i partiti indipendentisti hanno deciso di concorrere da soli sostanzialmente, ed Esquerra Repubblicana, che è il partito di Oriol Junqueras, il presidente, l'ex vicepresidente catalano, dai sondaggi sembra essere il partito favorito, mentre il PDeCAT, il partito di Puigdemont, è quello che sembra aver accusato più il colpo del caos politico. Resta da vedere cosa farà la CUP, cioè Convergencia d'Unità Popolare, che è il partito antisistema, il partito dei radicali, che ha dato un appoggio decisivo a Carles Puigdemont e a Junts pel Sí, che è la coalizione indipendentista, affinché ottenesse la maggioranza nel Parlamento catalano. La prossima settimana sarà decisiva per quanto riguarda la definizione delle liste elettorali dei candidati, al contrario dell'opposizione che marcia spedita. Domenica ci sarà qui Mariano Rajoy, che parteciperà all'atto di presentazione di Javier García Albiol, che è l'ex sindaco di Badalona, che è già stato annunciato come candidato ufficiale del Partito Popolare alle elezioni del 21 dicembre. Mario, ma in questo momento Puigdemont dove si trova, che fa? Lui è sempre in Belgio. Belgio, assolutamente. Sì, è sempre in Belgio. E interviene abbastanza spesso a parlare con i media del Belgio, e ha ribadito proprio oggi alla televisione pubblica fiamminga, BRT, che è convinto che i partiti indipendentisti vinceranno le elezioni del 21 dicembre. Lui, ricordiamo, che non può lasciare il Belgio, perché insieme agli altri 4 ex consiglieri, i 4 fedelissimi che lo accompagnano in Belgio, sono state adottate misure cautelari nei suoi confronti, non può lasciare il Belgio, gli è stato anche requisito il passaporto. E il 17 novembre ci sarà un appuntamento decisivo con la giustizia belga, che dovrà decidere in sostanza le sorti di Puigdemont, ma lui per ora non può lasciare il Belgio. Per ora è rifugiato lì. Grazie Mario Magarò da Barcellona. Ciao Mario. Ciao Roberta, buona serata. Ciao, buona serata a te. Direi che è il momento, sì, a questo punto, di lasciarci. Quante cose ci siamo raccontati oggi, poi ve le sintetizzo come sempre nei titoli principali alle 22.